tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate. Ben ritrovati e ben ritrovati, Radio Wombat, il Ponte Radio. Subito mi rientra un microfono così per gradire. Chissà, sarò io, sì. Ponte Radio, dicevamo, per questa puntata di... che giorno siamo? Il 17, venerdì 17, ce lo siamo anche detti che è una giornata un po' così, un po' particolare, almeno da un punto di vista scaramantico. E, però noi raccogliamo il testimone consueto ormai settimanale di questa sorta di staffetta tra radio sorelline che si alternano per parlare ogni volta di un argomento diverso. Questo mese al Ponte Radio ci occupiamo di lavoro e ogni radio ha deciso di declinarlo un po' alla sua maniera e in particolare abbiamo noi deciso di raccontarvi un po' il territorio fiorentino e pratese. Devo dire oggi più che altro saremo sul pratese e il distretto un po' anche verso nord, Firenze Nord, Campi, Sesto, eccetera. E in particolare il distretto tessile, il comparto tessile, ma insomma lo vedremo meglio. Abbiamo in studio per aiutarci a un po' raccontarvi questo tema Sara della campagna 8x5, che quindi saluto intanto. Un saluto a tutte e tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. E direi che il tempo, come sempre, il tempo a nostra disposizione è sempre una tragedia. Infatti vorremmo proporre all'altre radio di fare tipo uno spazio di 7 ore, perché in un'ora e mezzo non ce la facciamo mai. E quindi intanto direi di correre subito a iniziare e raccontare un po' che cos'è la campagna 8x5, in modo che magari sappiamo dare un qualche coordinata in più a chi ci ascolta. Sì, la campagna 8x5 nasce nel 2021, 8x5 vuol dire 8 ore per 5 giorni. Come slogan potrebbe sembrare un po' datato, nel senso che ovviamente per tante e tanti 40 ore settimanali sono fin troppe di lavoro, e questo è assolutamente condivisibile, ma ci siamo trovate a Prato a costruire questa campagna che si chiama 8x5 per una campagna di scioperi che nasce contro il sistema 12x7, che sono 12 ore di lavoro 7 giorni a settimana. E per questo appunto quello che potrebbe sembrare uno slogan appunto datato, antico, invece su questo territorio diventa invece una forza, diventa una rottura, dal momento in cui appunto invece la normalità nel distretto tessile pratese è purtroppo appunto questo sistema delle 12 ore al giorno, 7 giorni. Come dire, entriamo un po' magari anche nel racconto di quello che è un po' il territorio. Quindi voi quando siete arrivati nei dintorni di Prato, diciamo così, come dicevamo prima, prima che iniziasse la trasmissione, molti di voi non abitavano lì, non avevate contezza di quello che succedeva là, non eravate abitanti, non era un qualcosa che vivevate tutti i giorni sulla vostra pelle. Quindi com'è stato questo incontro? Sì, noi siamo arrivati come diciamo forestieri a Prato, siamo arrivati nel 2018. Perché si sente infatti che non mangi le scie, non le aspiri. Sì, tra l'altro appunto noi stavamo a Firenze, ma non siamo nemmeno toscani in realtà, per cui ci siamo approdati a Prato. In realtà inizialmente a partire da quelle che erano le lotte nella logistica, per cui quelli che già da altri scioperi che c'erano stati in altre città, diversi lavoratori, facchini, volevano iscriversi al sindacato e quindi ci avevano contattato. C'era la necessità di costruire diciamo un nodo anche a Prato, tra Prato e Firenze, e una volta, diciamo, arrivati sul territorio, abbiamo iniziato a incontrare diverse persone che facevano, che venivano in ufficio per raccontare la loro situazione e provare a organizzarsi per cambiarla, che ci raccontavano appunto di questo sistema delle 12 ore per 7 giorni. Inizialmente noi pensavamo che fosse, diciamo, un qualcosa di particolare, diciamo, magari veniva una persona, due persone, un'eccezione, sì, una diciamo qualche padrone pazzo che decideva di far lavorare così gli operai e le operaie, mentre invece poi sostanzialmente sempre più persone hanno iniziato a venire in ufficio e raccontare di questa storia. Noi non conoscevamo il distretto tessile, e per cui abbiamo iniziato un po' questa avventura di esplorazione del territorio attraverso le lotte al fianco degli operai che iniziavano degli scioperi che si volevano organizzare. Per cui, diciamo, eravamo vergini, diciamo, da questo punto di vista, e abbiamo conosciuto Prato a partire da quelli che sono i distretti, che vengono chiamati macrolotti, cioè macrolotto 0 che sta in centro, il macrolotto 1 e il macrolotto 2 che invece sono a Prato Sud, che sono la periferia industriale. Una periferia che di fatto è completamente isolata dal centro cittadino, da poi la componente bianca anche della città. Prato è la città con la più alta percentuale di stranieri, e ora sono circa il 23%. Di toscani? Cioè in Toscana? No, no, in tutta Italia. Ah, ecco. La prima è Prato, la seconda è Campi Bisenzio. Ah, ecco, benissimo. Campi Bisenzio, lo diciamo, è accanto, cioè tipo sì, sì, un chilometro. Per cui appunto in questo percorso che abbiamo iniziato, abbiamo iniziato appunto a conoscere il territorio, i distretti, con gli scioperi, con i picchetti davanti appunto la prima fu la tintoria GM, poi la stamperia DS, e questi luoghi che sostanzialmente sembra di essere da un'altra parte, sono dei non luoghi in cui di fatto da una parte si vede chiaramente, cioè, non c'è manutenzione, non c'è nessun tipo di cura, sono territori appunto abbandonati a loro stessi e che a volte potrebbero sembrare anche disabitati, un po' deserti, ma in realtà, nella verità, non lo sono. Sono pieni di migliaia di operai e di operaie che appunto lavorano con questo sistema delle 12 ore di giorno, di notte, per cui appunto si vedono, quello che si vede per lo più sono i furgoni, i camion che si muovono all'interno del distretto da uno stabilimento all'altro, e però appunto in questo territorio che molto spesso poi per tanti operai è poi a volte l'unico luogo che le persone vedono oltre la loro casa, persone che appunto tornano a casa solo per dormire, non hanno tempo, non hanno nessun tempo di vita, non hanno tempo per fare assolutamente nulla al di fuori del lavoro, e spesso è l'unico luogo che vedono. Una cosa, diciamo, una dei risultati delle lotte che è stato molto potente è stato poi attraversare altri luoghi insieme agli operai, cioè andare insieme nel centro della città, vedere altre strade, andare a vedere Firenze, cioè per persone che magari vivevano a Prato da 5-6 anni non avevano mai visto il centro di Firenze, e quindi scoprire insieme questo territorio. Per me è stato, cioè, una delle cose che mi è rimasta più impressa è stata proprio stare al bar insieme a questo lavoratore che mi diceva: guarda, io, cioè, questa strada qui la prima volta l'ho attraversata con voi per stare insieme, prendere il caffè insieme, passare il tempo insieme, e ti fa rendere conto appunto anche poi di tutto quel livello che è il livello di segregazione, che poi diventa anche il sistema 12x7, per cui gli operai, i lavoratori stanno nel distretto, stanno nel macrolotto e non si devono muovere da lì, e non c'è spazio per loro in altre parti della città invece. Tra l'altro mi viene in mente anche il contrario, cioè se è vero che gli operai sono riusciti in quel, grazie anche a queste lotte, a uscire un attimo dalla segregazione, siete anche riusciti in qualche maniera a portare noi compagni simpatizzanti e solidali dentro il macrolotto e vedere una realtà che a noi c'era preclusa, beh, questa volta volontariamente, nel senso che nessuno ci costringeva a non andarci, però effettivamente mi ricordo benissimo, se ne parlava anche negli ultimi giorni, di un corteo veramente emozionante che avete fatto nel macrolotto, se, correggimi se sbaglio, mi sembra all'interno della vertenza con la TechSprint, sbaglio? Era dopo l'aggressione di Dreamland, ecco cos'era, e per noi è stato una doccia fredda, ma al di là di tutto le varie questioni che ci ha smosso, ma anche vedere un territorio, e come raccontavi, così strano, così surreale quasi. E riguardo a questa cosa qua, una suggestione forse un po' buffa riguardo all'abbandono di questi luoghi e alla nostra, alla partecipazione che c'è stata da parte di compagni e compagne di tutto la macro area fiorentina, è stato proprio che venire ai presidi in genere, cioè le prime due volte uno regolarmente si perdeva perché non capivi i sensi di marcia, cioè la carta, non capivi i sensi delle vie, queste robe qua. Quindi questa roba qua in effetti sembravano proprio delle zone western davvero, sì. Completamente abbandonate, mentre secondo me l'aspetto della segregazione è veramente centrale nel capire la questione, anche per quello che riguarda la segregazione percepita, cioè come ad esempio fuori da Firenze e l'area di Firenze è percepita, perché queste aree, diciamo a Firenze nord-ovest, nord, tra la Piana e Prato, sono proprio leganti, in senso quasi geografico, ecco, tra Firenze e Prato, e quindi è veramente pazzesco pensare come riescano a rimanere isolate tra le persone che le vivono, tra le persone che le guardano da fuori, cioè è veramente una segregazione quasi totale. Ma infatti una delle sfide più grandi per le compagne e compagni fiorentine è stato spiegare, rappresentare che Prato non era così lontana, nel senso che cioè, in linea d'aria in realtà è vicinissima, in linea d'aria sono 15 chilometri da Firenze e in quarto d'ora di treno. In treno ci voglio 15 minuti, però le persone hanno questa percezione che sia un luogo lontanissimo, perché effettivamente è completamente l'opposto, cioè il centro fiorentino, rinascimentale, eccetera, e poi in realtà dietro l'angolo c'è la zona industriale con lo sfruttamento, che poi c'è anche tutta una dimensione economica, ovviamente magari affrontiamo anche più avanti, però sicuramente sì, uno degli obiettivi è stato costruire questa... iniziare a rompere la segregazione e quindi anche portare una composizione magari anche appunto autoctona, bianca, che ha iniziato a solidarizzare con le lotte, a vedere questi luoghi, perché le persone non li attraversano. Molto spesso anche la composizione appunto pratese, di quello possiamo immaginare anche diciamo un giro di compagni, non ha occasione di entrare in relazione con questi territori, e quindi le mobilitazioni e le manifestazioni sono tanto, secondo me, potenti anche per quello, cioè è stato anche un po' aprire le porte del macrolotto, che invece tanti pensano che siano chiuse, diciamo. Ma tra l'altro questo ci dà anche il là per introdurre la clip che ci stiamo per, il contributo che ci stiamo per ascoltare. Sì, come dicevi giustamente, è stato un momento in cui ci siamo resi conto di una realtà che forse avevamo anche un po' dimenticato, perché fra l'altro era anche la realtà nostra, anche di noi abitanti bianchi fino a poco tempo fa, fino a pochi decenni fa. In parte lo è ancora, perché comunque quando si pensa a Firenze, al territorio toscano, si pensa sempre appunto alla narrazione, chiamiamola così, della Disneyland, del Rinascimento, del turismo, del Chianti-Shire, ma in realtà il territorio fiorentino, in particolare quello pratese e il distretto, ma anche pistoiese, insomma tutta la zona tutta nord, la quella zona là è una zona ampiamente di manifattura, ampiamente industriale, che è stato il cuore della, anche dell'economia toscana per decenni, se non per centinaia d'anni. Quindi in realtà adesso c'è, come dire, un cercare di sovrascrivere l'immagine di Fiorentina e Pratese con il turismo, ma in realtà, ecco, i nostri nonni, i nostri genitori sapevano bene quanto la realtà fosse invece molto più industriale, molto più manifatturiera. E questo ci introduce anche a una clip che, appunto, come dicevo, ci ascoltiamo adesso, perché diciamo che abbiamo scelto un po' di autointervistarci in questa puntata, e ci sembrava anche giusto così un po' raccontarci dall'interno, visto che queste cose in parte le viviamo o le abbiamo vissute. Quindi ci ascoltiamo. Mario, che è un altro compagno di Radio Wombat, ha intervistato un altro compagno di Radio Wombat, appunto, abbiamo fatto il giro, e che racconta un pochino la storia proprio della sua famiglia, in realtà, che lo sentiremo più che altro riguarda la zona di Campi Bisenzio, quindi, come abbiamo detto, molto, diciamo, che sta in mezzo tra Firenze e Prato. E ci ascoltiamo tre spezzoni diversi, poi un po' li commenteremo, a partire da sua nonna e poi via via fino ad arrivare ai giorni nostri. E quindi io direi di ascoltarcelo. Allora, un saluto a chi ci ascolta su Radio Wombat oppure sulle nostre radio sorelle in questo venerdì del Ponte Radio, in cui è nostro il microfono da Firenze. E in particolare oggi ci spostiamo un po' per questo argomento che stiamo per affrontare sull'area della Piana, fra Firenze, Prato, Campi. Parliamo con un compagno che abita lì nella Piana, segue le lotte che vi si svolgono, e assieme a lui chiediamo a lui di affrontare un po' i cambiamenti dell'economia del territorio per come si sono succeduti negli anni. Facciamo in due fasi, cominciamo innanzitutto dal tempo dei nonni, dei cambiamenti di un'economia da contadina verso il consolidamento dell'industria manifatturiera. Qual è questo passaggio, quando è avvenuto, insomma, e se ci racconta qualcosa. Grazie. Sì, appunto, già l'introduzione della domanda è centrata rispetto a un po' come si è evoluta la situazione fin dagli anni, diciamo, fin dalla metà degli anni 50. A metà degli anni 50 ci sono queste grosse lotte dei mezzadri, perché quando parliamo di economia contadina, qui in particolare nella Piana, Firenze e Prato, si parla di mezzadria e no di lavoro a coloni. E successivamente si ha questo passaggio derivante più che altro dalla meccanizzazione dell'agricoltura, e quindi da un'espulsione, diciamo, di migliaia di mezzadri dal mercato, dal contadinaggio, diciamo, e sia uomini che donne. E diciamo, gli uomini vanno nelle fabbriche, in particolar modo nelle fabbriche del Pratese, in cui c'era già un'industria manifatturiera, in particolare del tessile, ben radicata, ricca, ma che comunque abbisognava di ulteriore manodopera. Quindi gli uomini vanno nelle fabbriche a lavorare, seppur ritagliandosi nei momenti, diciamo, di non lavoro, del tempo libero, ritagliandosi ancora un po' di ore, diciamo, per il lavoro, un po' di ore settimanali per il lavoro nel campo, come dicevano loro. E le donne rimangono a casa, così come rimanevano a casa quando gli uomini andavano nel campo, ma quando rimanendo a casa, però, diciamo, in questo passaggio, a loro viene demandato, diciamo, questa sorta di ottimo, sempre per questa industria tessile pratese, in cui, rispetto al lavoro, alle conoscenze lavorative che avevano precedentemente, continuano a farlo in casa. A Cottimo, mia nonna, per esempio, che lavorava a Treccia e lavorava la paglia, cominciò a fare i cappelli di paglia, pur come succedeva precedentemente, quando erano contadini, continuando a fare la casalinga. Quindi abbiamo gli uomini in fabbrica, le donne a casa a lavorare a Cottimo, sempre nel settore manifatturiero tessile, con le proprie specifiche conoscenze dei lavori precedenti e che continuano con tutti quei lavori da casalinga che facevano precedentemente. Tutto questo chiaramente si innesta in una situazione, diciamo, da un punto di vista dello sviluppo dell'industria nella zona già abbastanza consolidata, ma che però ancora, diciamo, era una forma industriale artigianale. Ecco, a metà degli anni 50, fine anni 50, anche qui si assiste a, diciamo, una produzione più consona, diciamo, e regge il passo con il boom industriale del nord Italia. E andiamo allora avanti. C'è stato un passaggio successivo poi che ha portato un po' dal lavoro a cottimo fatto dalle donne a poi la centralizzazione di questo stesso lavoro in un luogo, cioè nella fabbrica. Anche per questo lavoro prima veniva svolto appunto a domicilio. È stato un passaggio di una generazione dopo, giusto? Quella dei tuoi genitori. Qual è stato questo nuovo cambiamento? Cosa è successo? Esatto, quindi abbiamo dall'inizio, da metà anni 50, questo primo passaggio, da metà anni 60, da metà anni 60 un secondo passaggio, chiaramente i primi contadini per primi erano entrati in fabbrica, vanno in pensione o comunque smettono di lavorare e il lavoro fatta a casa, fatta a cottimo dalle donne, viene proseguito da quelle che erano le figlie delle prime lavoratrici a cottimo, prime nel senso cronologico. In questo caso, per quanto mi riguarda personalmente, per quanto riguarda la mia famiglia, passa dalla mia nonna alla mia mamma e alla mia zia. E mia mamma e mia zia erano aggiuntatrici. Faccio questo piccolo excursus personale perché diciamo, rientra comunque in una logica che vedeva in questa situazione un po' gran parte delle lavoratrici della piana. Quindi mia nonna e mia madre e mia zia erano aggiustatrici, cioè mettevano il pezzo di sopra della scarpa, del sandalo, della scarpa da bambini, in questo caso in particolare della mia zia, sulla tomaia. E era un lavoro che veniva pagato abbastanza bene perché comunque richiedeva una certa dose, diciamo, di abilità, una certa esperienza, però nello stesso momento era sempre un lavoro a cottimo, sempre in casa e soprattutto anche da un punto di vista della salubrità era molto instabile, cioè c'erano queste le case, in particolare i garage, oppure le vecchie case contadine, venivano trasformate in questi piccoli mini laboratori familiari in cui venivano impiegate specialmente non solo per cucire, ma soprattutto per incollare la parte di sopra alla parte di sotto, cioè alla tomaia, alla sola della scarpa. Solventi e soprattutto mastici che in assenza diciamo di reazione, come spesso succedeva, erano anche abbastanza tossici. Insomma, comunque abbiamo questo passaggio, diciamo, è più che un passaggio di organizzazione del lavoro, è un passaggio generazionale. E nonostante queste lavoratrici a cottimo lavorassero isolatamente, però siccome si conoscevano abbastanza tra di loro, vuoi perché abitavano vicine, vuoi perché avevano più o meno la stessa età e quindi si conoscevano fin da piccole, erano riuscite a organizzarsi, per questo appunto ho detto precedentemente, prima pagato abbastanza bene, relativamente bene rispetto a quelli che erano i salari, seppur considerando era sempre un lavoro a cottimo, erano riuscite a organizzarsi e a ottenere, diciamo, un prezzo sempre una paga sempre maggiore, anche se in questo caso non è una vera e propria paga, ma è, diciamo, quanto veniva dato per pezzo di scarpa, oppure di altri oggetti finito. E c'è da dire però che non solo per questo, ma anche per una ottimizzazione dei costi di lavoro, un'ottimizzazione non riguardava solo quanto venivano pagate le lavoratrici a Cotimo, ma anche e soprattutto diciamo la logistica e l'economia stessa, insomma, il lavoro. Cioè, immaginiamo il dover portare, diciamo, i pezzi da finire a tutte le varie lavoratrici sparse sul territorio, tipo 20 scarpe da finire a 20 persone, mentre invece fare le stesse 20 scarpe per 20 persone riunite tutte nello stesso luogo. Si ha un maggior controllo sulla lavorazione, se lo stesso, ma soprattutto si ha un'ottimizzazione proprio della macchina, insomma, no? Nel caso di guasti, nel caso di sostituzione di pezzi, insomma. Oltre a tutto l'aspetto, diciamo, come dire, di spedizione, di non ritardo nel caso sia tutte nello stesso luogo, di possibilità di sostituire nel caso una lavoratrice si fosse ammalata, non avesse potuto fare il lavoro quel giorno, sostituirlo un'altra lavoratrice, in questo caso all'interno della fabbrica, no? Cioè, quindi una non si presenta al lavoro per malattia, comunque lo stesso lavoro lo può fare un'altra. Se invece c'è questo lavoro a Cottimo, se una lavoratrice non lo può fare il giorno, diventa più complicato, insomma, sostituirla un'altra lavoratrice, perché bisogna riandare a prendere i pezzi a casa, portarla a un'altra lavoratrice, rifare un giro, riandare a riprendere il pezzo, insomma. Quindi tutta una serie di aspetti che vanno dalla macchina in sé al maggior controllo sulla lavoratrice, alla possibilità di sostituirla seduta stante, just in time, nel caso di malattia, di inadempienza e via dicendo. E quindi si ha questo ulteriore passaggio che, come nel passaggio precedente, si innesta in una situazione generale complessiva e vede l'industria pratese, in particolare l'industria manifatturiera tessile, sempre più preponderante, sempre più importante sul territorio. Ricordiamo che io ho fatto l'esempio di aggiuntatrici, cioè di lavoratrici sulle scarpe, ma si parla anche di sarte e quindi del tessile, nel senso di vestiti, si parla di frecciaiole, quelle erano un mestiere, era presente nella zona, in particolare a Signa, dalla fine dell'Ottocento. In questo caso i cappelli di paglia diventano appunto cappelli fatti in metodo industriale e via dicendo, insomma. Quindi c'è questa necessità, e questa necessità, avendo l'industria pratese soldi disponibili per operare questo passaggio, per investire in questo passaggio, viene sfruttata, insomma, viene utilizzata. E questo erano appunto due clip in realtà che ci raccontavano un po' le origini della faccenda. Siamo sempre su Radio Wombat, vi ricordiamo in diretta però anche su Radio Quar, Radio Eustachio e Radio Onda Rossa. Se ci ascoltate dal territorio fiorentino e un po' a nord di Firenze, fino anche a Prato e oltre, potete ascoltarci in onde medie sulla 1359. Altrimenti vi ricordiamo da dove volete, fondamentalmente potete ascoltarci in streaming, il sito è radiowombat.net. Quindi, ascoltando un po' questo intervento, appunto, ci venivano in mente altre considerazioni. Sì, ma sicuramente la storia del territorio è molto interessante. Prima si parlava, diciamo, della storia anche di Firenze e sicuramente vale la pena ricordare. andando molto più indietro, anche diciamo tutta la questione della rivolta dei Ciompi, che fondamentalmente è al centro di Firenze ed è dei lavoratori del tessile sostanzialmente e delle pelli. Sempre lì siamo. Per cui diciamo è una storia molto lunga, sia di lavoro manifatturiero sia di lotte. Purtroppo diciamo a Prato questo aspetto qui viene molto spesso un po' nascosto, nel senso che c'è la volontà di rappresentare anche, intendo anche a livello accademico, politico, il distretto pratese come un distretto completamente pacificato, mentre invece la storia di lotte è molto lunga. Diciamo forse l'evento più importante recente, cioè tra virgolette recente, della storia diciamo della moderna è un evento molto bello secondo me da ricordare, del 17, diciamo prima durante la prima guerra mondiale, dove c'è questa marcia della pace fatta sostanzialmente da donne lavoratrici lavoratrici a domicilio e anche in fabbrica, in cui c'è questa marcia che parte da Prato e arriva fino a Firenze, e questa marcia a piedi per chiedere la fine della guerra, e dove diciamo lungo il percorso si uniscono lavoratrici che vedono passare la marcia vicino alle loro case, alla loro fabbrica, e appunto si uniscono a questa mobilitazione. Però sicuramente non si fermano lì le lotte, e sono molto importanti anche quelle invece degli anni in cui questo compagno ci raccontava, soprattutto legate all'ottenimento del contratto nazionale del tessile, nel senso che i contratti nazionali ormai per noi oggi sono una cosa normale, diciamo la diamo un po' per scontata, ci sono quelli buoni, quelli che fanno schifo, però di fatto ci sono, mentre invece cioè comunque questi contratti sono il frutto di lotte anche molto dure. Quello del tessile ha visto un'agitazione, una partecipazione molto grande da Prato, sia appunto sia per quanto riguarda le fabbriche che anche le lavoratrici a domicilio, in cui sono stati scioperi, picchetti durissimi. Vale secondo me la pena ricordare anche quelle che poi diciamo è anche l'età media di questi lavoratori e lavoratrici, che molto spesso è molto bassa. Se leggiamo diciamo i resoconti dell'epoca, troviamo anche delegate di 15, 16, 17 anni che appunto capeggiano questi scioperi, occupazioni di fabbriche, e che appunto vedono comunque Prato e tutto poi quello che ci gira intorno, la provincia di Firenze, come un nodo importante per la lotta operaia, delle operaie e degli operai, e che purtroppo diciamo spesso si prova a tenere nascosta, a rappresentare come in realtà un territorio in cui siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo pensare al bene del distretto tessile, dobbiamo mobilitarci per salvare il distretto, e che poi nel tempo ha portato anche poi a una congiuntura poi fra tutte le forze politiche sostanzialmente a questo fine, al fine di salvare il distretto, salvare la produzione e un po' meno i diritti, diciamo. Sì, tra l'altro mi veniva in mente che, come ci raccontava prima nell'intervista, cioè effettivamente si arriva al tessile dopo essere passati dai campi, dal lavoro nei campi, e in Toscana, soprattutto in quella zona e soprattutto nel Pratese, cioè Bresci veniva da lì non a caso, cioè c'era una grossissima presenza anarchica e socialista che prima nelle lotte contadine aveva anche lì insomma portato avanti moltissime battaglie e molti ne erano morti, e poi a un certo punto chiaramente spostandosi il lavoro verso il tessile, verso la fabbrica, poi dopo mi viene in mente che sia anche abbastanza naturale che queste stesse persone riproducessero questo tipo di lotte anche nei luoghi di lavoro nuovi in qualche maniera. Veniamo ora magari più ai giorni nostri e quindi ci racconta l'ultima clip che ci ascoltiamo di questa piccola intervista, dove arriviamo alla fase del cosiddetto arrivo dei cinesi, che è un'espressione orribile, però è quella che viene comunemente utilizzata, appunto, spesso anche per, questo ce lo racconterà molto bene anche il nostro compagno, per come dire che c'è stata un po' una cesura, no? Prima il mondo era tutto bello, era tutto pacificato, tutto perfetto, come ci dicevi te adesso, e a un certo punto sono arrivati i cinesi che hanno portato lo sfruttamento, hanno portato dei modelli di produzione diversi, da pazzi, hanno portato le 12 ore di lavoro. Ecco, in realtà la situazione, la realtà è molto diversa, e quindi iniziamo a ascoltare intanto un piccolo racconto seguendo questo filo del discorso, e poi torniamo in regia a parlarne. E succede questa cosa particolare per questa zona. A metà anni 70 l'associazione, tipo l'Associazione d'Amicizia Italia-URSS, l'Associazione d'Amicizia Italia-Cina, sono particolarmente effervescenti, sia perché c'è un ritorno di militanza e quindi di attenzione in particolare rispetto alla Cina, sia perché nel panorama politico mondiale, diciamo, il sostenere, il favorire questo tipo di amicizie è un aspetto politico importante. Ricordiamoci, sono i periodi della Guerra Fredda, e anche specialmente rispetto alla Cina, i periodi massimo di, insomma, subito dopo la guerra di Corea, e poi dopo ci sarà la famosa diplomazia del ping pong di Nixon e via dicendo, e ha portato a un maggior rapporti, no, tra gli Stati Uniti e la Cina. Però siamo sempre in situazioni particolarmente pesanti, insomma, rispetto all'isolamento vissuto da chi sosteneva questi paesi. Quindi c'è questa associazione Italia-Cina, in particolare a Campi Bisenzio, che casualmente non è assolutamente colpa, tra virgolette, insomma, responsabilità di chi organizzava questi rapporti da Cina, e casualmente è in contatto con la zona della Cina, città cinese, che più è avanti, diciamo così, nell'industria del tessile. E quindi le cose vengono un po' da sé. Chiaramente chiaramente è perché c'è già un'industria nella zona, nella piana Campi Prato, Campi Firenze, che già è pronta, diciamo, a recepire certi passaggi, e in questi passaggi, tramite il conoscente, tramite l'amica, stiamo sempre parlando del, come dire, di questi rapporti con questa città cinese, si comincia appunto la presenza sempre maggiore di cittadini provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. E appunto, chiaramente c'è già una situazione pronta ad accogliere da un punto di vista economico questa visione, questa filosofia del lavoro, che poi successivamente arriva fino appunto ai giorni nostri, e che vede questa grande, diciamo, presenza nell'industria pratese di soggetti, non si può nemmeno più dire provenienti, anzi ora sono italiani, e quindi questo per dire molti di loro sono italiani, ma questo per dire che non è la venuta del cinese, come troppo spesso e purtroppo la vulgata vuol dare a intendere, che ha cambiato e ha portato a un peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, ma è proprio perché la filosofia proprio del lavoro di Confindustria Pratese, diciamo così, permette e agevola, diciamo, questo tipo di lavoro, questo tipo di metodo di lavoro che tuttora è presente nella piana sostanzialmente. C'è da dire anche che all'interno della stessa comunità cinese si assiste proprio a un spaccato della società divisa in classi proprio da manuale sostanzialmente, perché ci sono i soggetti ed è più visibile che diciamo, cioè è proprio visibile perché vediamo i due, tre, quattro capetti o i macchinoni e le ville e poi via via via via via via fino in giù con quelli che vanno a lavorare in bici alle 6 la mattina o addirittura che dormono all'interno dei laboratori, insomma, e quindi è proprio purtroppo è proprio uno spaccato, diciamo, della società, della stratificazione in classi della società, che qui è molto visibile, molto concreto, insomma, ecco. Ed eccoci di nuovo in regia, ci prendiamo un attimo di riposo con un breve brano musicale. Piero Umiliani, Lavoro Nero, perché ci sembra così a tema, e poi ritorniamo subito. Eccoci, quindi arriviamo ai giorni nostri, per così dire, e come ci diceva nell'intervento, le cose sono piuttosto cambiate, effettivamente, magari non nel nocciolo dello sfruttamento, come vedremo e come abbiamo anche un po' già visto, ma nella quotidianità e nella anche organizzazione più che altro della produzione. E quindi a me mi interessava capire anche con Sara come funziona attualmente tutta la divisione della produzione. Quindi io da completa ignorante della questione mi immaginavo, come dire, la fabbrica che fa produzione di tessili oppure che fa segue magari un brand e che c'ha tutto, cioè tutto lì, segue dall'inizio alla fine tutte le varie fasi, alla fine ti consegna il prodotto completo in qualche maniera, che sia un filato, che sia delle scarpe o quello che deve essere. In realtà anche attraverso le vostre lotte ci siamo accorti che non è assolutamente così, che è tutto molto più compartimentato, molto più separato. Sì, sarebbe il cosiddetto sistema distrettuale. Il distretto banalmente è un meccanismo per cui ci sono fabbriche di media grandezza. Immaginiamoci che diciamo il numero di lavoratori medi nelle fabbriche pratesi è 6. Per ogni azienda, però ovviamente troviamo da situazioni in cui ci sono soprattutto le tintorie 70-80 lavoratori, mentre invece poi ci sono laboratori via via sempre più piccoli, come anche le confezioni, che potrebbe esserci anche una persona sola a lavorare. Per cui il sistema distrettuale è questo sistema per cui, come in realtà veniva accennato anche un po' prima, per cui ci sono diversi stabilimenti che fanno una parte della lavorazione. Questa scomposizione della lavorazione può essere, diciamo, scomposta in parti sempre più piccole e sostanzialmente è diciamo a livello accademico si sostiene che sia positiva per la dinamica della competizione tra aziende, che comunque spinge all'innovazione, eccetera. Sicuramente il tentativo di scomporre la composizione lavoratrice è esplicito, nel senso che ovviamente tenere 200, 300, 400 operaie nello stesso stabilimento che possono organizzarsi insieme è più pericoloso piuttosto che avere 10 stabilimenti con 40 persone e dentro. Allo stesso tempo avere tanti cosiddetti piccoli padroni che possono fare cartello e strutturarsi loro invece al contrario di tanti lavoratori insieme. Sì, certo. Poi questo sistema appunto del distretto, io provo un po' a condividere, diciamo, quali sono le fasi della lavorazione. Parliamo diciamo innanzitutto, bisogna immaginare, c'è la parte del tessile che è legata proprio alla manifattura di tessuti, e poi c'è l'abbigliamento, poi ancora in realtà a Campi Bisenzio c'è la pelletteria, quindi scarpe, borse, eccetera. Quindi, diciamo, se vogliamo immaginare la nascita di questo vestito, partiamo dall'inizio, che è diciamo la parte della filatura. Sostanzialmente non viene fatta a Prato, la produzione, cioè quello che viene usata nel distretto tessile pratese è sostanzialmente il 5% del prodotto italiano, il 10% viene fatto, viene importato dalla Turchia e tutto il resto dalla Cina, dalla regione di Wenzhou, che è poi quella che in realtà è diventata famosa perché c'era da cui è nata poi purtroppo l'epidemia, dove è iniziata l'epidemia di coronavirus. E sostanzialmente quindi vengono importati questi prodotti, il filato che poi viene tessuto, per cui ci sono le tessiture, le ritorciture, e tutto quello che ha a che fare con la lavorazione del filo, quindi come si tesse, che viene fatto in diversi modi, e poi quindi ci troviamo con questo prodotto, con questo tessuto. Il tessuto, una parte viene esportato e quindi viene venduto in Italia e in Europa, invece un'altra parte viene utilizzato nel distretto per la fase la parte dell'abbigliamento. Quindi dobbiamo immaginarci che questo tessuto va tagliato, vanno fatti i modelli, vanno disegnati i modelli, va tagliato, va cucito e poi va, anzi il tessuto deve essere, a seconda del modo di lavorazione, va tinto o stampato prima o dopo che diventi, diciamo, già un capo, Quindi esiste la tintura in capo o la tintura in tessuto, che viene fatta da aziende diverse, e poi dopo via via tutto quello che riguarda gli accessori, bottoni, e la rifinitura e la stiratura, che è comunque un aspetto abbastanza importante che io, per esempio, cioè sinceramente non avevo mai pensato, cioè, al fatto che i vestiti effettivamente nei negozi noi ce li troviamo stirati e ci piacciono anche perché sono stirati, certo, perfettamente, e non dobbiamo immaginarci, purtroppo, diciamo, non c'è qualcuno, un gigantesco macchinario che stira tutti questi vestiti, ma al 99% c'è una persona. Cioè, esistono dei macchinari che però magari stirano, che ne so, i piumini, le giacche, che sono più semplici, o t-shirt magari, ci sono dei meccanismi più automatizzati, no, però dei macchinari, diciamo, meno faticosi, ma molto spesso, soprattutto camicie, ma anche vestiti, vengono stirati nel senso sull'asse da stiro, cioè nel senso che proprio c'è una persona col ferro da stiro in mano e l'asse da stiro e stira per 8 ore, migliaia, va bene, di... oppure 12 nel contesto in cui stiamo parlando noi. Quindi immaginiamoci, io sinceramente personalmente ho abbandonato la pratica dello stirare perché mi fa fatica a farlo anche per 10 minuti, cioè veramente pesante come lavoro, magari. Sì, anche diciamo a livello domestico, immaginiamoci farlo invece per 8, 9, 10, 12 ore anche con un ferro da stiro in mano, per cui appunto tutte questi pezzi della lavorazione sono divisi in diversi stabilimenti. Poi c'è il tema del pronto moda, che è un sistema che nasce, diciamo, una ventina di anni fa, che è questo sistema per cui di fatto la lavorazione, appunto proprio il nome si chiama pronto moda, nel senso che è just in time, per cui i clienti finali ordinano questi vestiti e devono essere fatti il prima possibile. Non c'è una lavorazione precedente, cioè diciamo c'è una piccola parte della lavorazione viene fatta prima, ma non so come dire, non c'è programmazione. Per esempio nel mese di novembre e dicembre sta arrivando la primavera, per cui nel mese novembre e dicembre gennaio faccio la lavorazione, faccio le t-shirt, faccio i vestiti estivi. No, non è così, inizia a febbraio, iniziano le ordinazioni, i negozi devono iniziare a vendere questi vestiti, appunto devono metterli in vetrina, e per cui iniziano le ordinazioni, e da qui nasce anche poi tutto il tema della lavorazione 12x7, perché non è solamente fare straordinari, ma è anche proprio la presenza dentro la fabbrica. Cioè, l'unica differenza che io vedo, diciamo, rispetto al passato, è che anche nel passato c'era questo problema molto gravoso degli straordinari, che magari appunto erano 10-11 ore, però sostanzialmente erano legati alla lavorazione. Ad oggi parliamo di un sistema in cui, anche se non c'è lavoro, anche se lavoro è poco, comunque le persone devono stare in fabbrica, e quindi appunto si fanno questi turni, 12 ore, due turni da 12 ore. Devi stare in fabbrica perché quando a tizio gli viene in mente io voglio andare lì alla tintoria a tingere o stampare il vestito, ci deve essere sempre qualcuno lì, è aperto e io inizio a lavorare appena tu me lo porti. Reperibilità totale dei servizi H24. Mi fa molto effetto, perché la settimana scorsa su Radio Onda Rossa, sempre nell'ambito del Ponte Radio, parlavano di reperibilità nell'ambito del lavoro, per esempio informatico, e si lamentava proprio una cosa simile, cioè del fatto che in fondo a un certo punto si è iniziato a pensare che tu dovevi essere reperibile sempre, perché le macchine possono rompersi sempre, ed è fondamentale subito rispondere, mentre prima magari si poteva rispondere con più lentezza. Ecco, mi sembra proprio un mood generale del lavoro e dell'economia che in qualche modo crea un bisogno continuo e H24 di profitto, e quindi di lavoro e di sfruttamento, che non è che prima forse non c'era, però adesso c'è proprio una, un, come dire, una mentalità per cui tutto deve continuamente essere nutrito, sì, e il alimentato. Servizio, il servizio adesso, è, ogni forma di servizio è considerato dovuto. Cioè non c'è un più... sistema anche della velocità, sostanzialmente dell'accelerazione dei tempi, che però di fatto stira i tempi di lavoro e li allunga in modo smisurato. Per cui, cioè, penso quando abbiamo, ci siamo trovati a fare le trattative, no? In cui inizialmente appunto si contestava questo sistema di lavoro, dall'altra parte diciamo padroni, padroncini, consulenti, professionisti arrivavano a dire sì, però nel senso, sì, sta 12 ore, però comunque lui sta al cellulare quando non c'è niente da fare. Ho capito, che deve fare? Sta a fissare la macchina, certo. Nel senso, è chiaro che uno fa anche qualcos'altro, però quello è tempo di lavoro, nel senso, io non sono, se non ho a disposizione il mio, cioè se non posso usare il mio tempo e devo stare nella fabbrica, quello è tempo di lavoro. Addirittura c'è, cioè, chi dice ah sì, ma noi gli diamo colazione, pranzo e cena, ma vorrei vedere, ma ci fai dormire, appunto, cioè il punto è che uno non dovrebbe fare colazione, pranzo e cena dentro una fabbrica oggettivamente, però molto spesso si arriva veramente ai paradossi cui la gente, cioè penso le controparti non si rendono neanche più conto di quanto sia allucinante e folle tutta questa situazione, di cosa gli esce dalla bocca. Esatto, ma anche, cioè, italianissimi, assolutamente, anche professionisti, però fondamentalmente è un po' il punto del che cos'è l'orario di lavoro, cos'è il tempo di lavoro. E fondamentalmente immaginare che, cioè, dal momento in cui il tuo tempo deve essere a disposizione del datore di lavoro, quello è tempo di lavoro, anche se tu in quel momento preciso lì stai facendo qualcos'altro. Ma se poi da un momento all'altro, in qualsiasi momento, io devo mettermi a disposizione, io non ho veramente la possibilità di utilizzare il mio tempo di vita come voglio e pensare appunto a quali sono i miei bisogni e le mie necessità. Per cui appunto il tempo di lavoro è quello che diamo e purtroppo appunto vendiamo al padrone. Certo, questo direi che ci aiuta a introdurre un po' anche la questione dei vari brand e della fast fashion, perché chiaramente tutto questo, se già magari era una tendenza che già iniziavamo a vedere qualche decina d'anni fa, ecco adesso con l'avvento, cosiddetto avvento della fast fashion, cambia un po' tutto, nel senso non diametralmente, ma insomma con tutto ciò ha un'accelerata brusca. E noi abbiamo scelto chiaramente l'argomento fast fashion, si può affrontare perché va a investire un sacco di aspetti e quindi si potrebbe parlare moltissimo degli effetti ambientali che ha, dell'impatto ecologico, anche l'impatto sulla salute per le persone, insomma lo potremmo vedere da veramente molti punti di vista. Abbiamo scelto, per brevità, perché il tempo è quello che è, di guardarlo dal punto di vista di chi ci lavora, quindi e anche devo dire dal punto di vista di chi lavora alla produzione dei vestiti. Non, per esempio, avevamo un contributo che però non riusciamo a mandare perché non facciamo tempo con l'ora e mezzo a disposizione. Avevamo un contributo da una persona che lavorava come commessa nei negozi, appunto, che poi vendono fast fashion, e quindi anche quello era un aspetto da guardare, insomma, da indagare, che ci riserveremo di farlo più in là. E quindi ci facciamo introdurre un pochino, sempre da Mario, alla fast fashion, che si occupa di raccontarci un pochino il concetto generale che sta dietro, e poi torniamo in studio. Ciao, un saluto a chi ci ascolta su Radio Wombat o sulle nostre radio sorelle in questo venerdì del Ponte Radio, in cui non ci sono, non sono con voi in diretta perché sono al lavoro. Tuttavia, prima di andarci, ho pensato di registrare questo contributo, così partecipo anch'io, anche se in forma un po' mediata. Visto il tema della puntata di oggi, ho pensato di parlare un po' della moda low cost e di cosa dietro essa si nasconde. A scuola, lavorando per l'esame di terza media, con alcune ragazze abbiamo fatto delle ricerche su questo e abbiamo scoperto qualche numero. E ve lo riporto volentieri. Abbiamo scoperto in generale, innanzitutto, che dietro alla moda low cost si nascondono lavoratori sottopagati e mancanza di norme di sicurezza, materiali scadenti e poi sistemi di lavorazione molto inquinanti. Tutto questo è quello che si chiama fast fashion, che poi spesso si rappresentano poi in un'app, e questo è quello che arriva. ma dietro a questa moda usegetta si nascondono tutti questi problemi. Si parla di capi fatti a basso costo, con bassa qualità, utilizzati una stagione e poi destinati a finire negli inceneritori. La moda fast fashion contribuisce in modo molto diretto all'inquinamento ambientale che produce l'industria tessile, la quale è la seconda più inquinante al mondo, e produrre e vendere a bassi costi invoglia ovviamente i consumatori a fare acquisti impulsivi, a fare sì che ci sia sempre più guadagno per le aziende. La filiera tessile del fast fashion negli ultimi 20 anni ha causato molti danni ambientali e sociali. E tutto questo è aumentato poi con l'aumento degli acquisti online, soprattutto dal periodo pandemico in poi. E però poi ci sono anche problemi per la salute che sono legati per esempio alle tinture dei tessuti, che spesso contengono componenti molto dannosi, cancerogeni per l'uomo, e anche nelle materie prime utilizzati per realizzare questi indumenti, che sono principalmente cotone e poliestere, il quale è molto tossico, è un materiale sintetico ricavato dal petrolio che non può essere riciclato e non è ovviamente biodegradabile. E queste sostanze tossiche poi dai tessuti entrano oltre che in contatto con il nostro corpo, poi vengono rilasciate nei lavaggi e finiscono per contaminare i mari, gli oceani e così via. E tutto questo non significa niente per la... In qualche modo, insomma, malgrado tutto questo, l'industria della moda continua inesorabilmente a crescere. Oggi, infatti, è responsabile del 10% e più dell'inquinamento globale, e come dicevo, è il secondo settore più inquinante al mondo dopo quello del petrolio. I rifiuti tessili oggi sono più di 92 milioni di tonnellate all'anno, e buona parte di questi non sono solo prodotti giunti al termine del loro ciclo di vita, però comprendono anche tutto l'invenduto dei marchi di abbigliamento, che devono poi far posto alle nuove collezioni che vediamo sempre più essere settimanali e non stagionali. Sì, c'è un ricambio sempre più veloce, e tutto questo scarto deve essere smaltito, e il più delle volte viene bruciato o mandato in discarica. E quindi, insomma, abbiamo guardato un po' con queste studentesse, anche ci siamo domandati che fare. E un appello ai consumatori sicuramente è importante, però forse anche un po' vano, magari non bastante, anche perché forse non tutti siamo consumatori, ma nessuno si riconosce innanzitutto come consumatore, quindi il problema è probabilmente più grande, e c'è di mezzo il modo di produzione e il sistema politico, economico nel quale viviamo. Questo per introdurre un po' la questione della fast fashion. Sì, il sistema politico e economico in cui viviamo è questo di cui parliamo oggi. Radio Wombat, vi ricordo ancora, è sul Ponte Radio, in diretta anche sulle altre radio sorelline. E quindi la fast fashion, l'avvento della fast fashion chiaramente amplifica tutto quello di cui abbiamo parlato finora. È un qualcosa che ci viviamo, come giustamente diceva Mario, sulla nostra pelle quando entriamo in un negozio e ci rendiamo conto che cambiano le collezioni da una settimana all'altra, per non dire da un giorno all'altro. Questa è una cosa che chiunque di noi può verificare effettivamente. Io mi sono sempre chiesta poi tutti quei vestiti, cioè poi non è che rientrano in circolo, non è che dopo 2 mesi magari te li rivedi ricomparire, no, vengono palesemente buttati, quindi c'è una mole diversa di produzione e sostentata da tutto il lavoro che dicevamo prima, dalla catena di sfruttamento che dicevamo prima. Sì, appunto il sistema della fast fashion è un po' legato anche a quello che dicevamo prima, il tema del pronto moda, della velocità, eccetera, e però appunto anche rispetto alla capacità delle aziende anche di andare a esportare fondamentalmente ovunque nel mondo. Cioè, diciamo che volevo fare una parentesi rispetto al per quale motivo, nel senso, abbiamo visto, diciamo, il meccanismo della delocalizzazione e quindi appunto della possibilità e l'intento fondamentalmente per abbassare per andare a produrre laddove le condizioni sono peggiori delle aziende di spostare la produzione. Questo in parte, diciamo, sul distretto tessile è successo, ma nell'abbigliamento invece c'è stato un, come viene chiamato, inshoring, quindi una, non c'è in italiano il contrario di in localizzazione. E quindi per quale motivo ci potremmo chiedere? Sicuramente una parte della questione è legata ai tempi, cioè ai tempi di consegna, ai tempi di produzione di consegna. Il punto è che appunto la fast fashion, così fast, che ha bisogno di poter essere approvvigionata sempre così velocemente, che ha necessità di avere i punti di produzione sul territorio e quindi non riesce a delocalizzarli. Quindi quello che poi è accaduto a Prato è stata appunto rilocalizzare la produzione, ma anche in realtà importare, tra virgolette, possiamo immaginare così, anche le condizioni di lavoro, rispetto al fatto che comunque se penso a, diciamo, i primi anni 2000, rispetto a tutto quello, quando emergeva, diciamo, il tema della il movimento global, il tema della globalizzazione, quello che i racconti che venivano fatti di persone in Pakistan, in Bangladesh, in Cina, che lavoravano 12-14 ore per pochi spiccioli, di fatto poi noi l'abbiamo visto invece sul territorio, in cui fondamentalmente per lo più quelle stesse persone pakistane, bengalesi, cinesi si muovono verso che si sono spostate in Europa, poi vengono costrette a lavorare nelle stesse condizioni, quindi 12-14 ore e nel 2018, quando noi abbiamo iniziato il nostro lavoro nel distretto tessile a Prato, la paga era di 800 euro al mese, 800-900 euro al mese per 84 ore a settimana. Per cui questo sistema appunto di globalizzazione, un po' al contrario, diciamo, se c'ero inversa, globalizzazione e comunque un sistema, quello del distretto tessile pratese, è il secondo distretto più grande d'Europa, che comunque esporta in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Per cui io una cosa che ho preso l'abitudine di fare, quando se magari mi capita di andare all'estero, di guardare dove c'è scritto Made in Italy, dove nell'etichetta c'è scritto dove viene fatto il prodotto, e nella maggior parte dei casi è fatto a Prato, per cui ci possiamo immaginare quali sono state le condizioni per aver fatto quel capo lì. Sicuramente diciamo il meccanismo della globalizzazione, sostanzialmente dell'eliminazione dei dazi eccetera, che nasce e si sviluppa soprattutto negli anni 80 e 90, ha avuto un impatto grosso su quello che era diciamo il distretto storico, e anche su alcune tecniche che venivano utilizzate. Per esempio a Prato poi a un certo punto questo diventa illegale, diciamo, tra virgolette, non si può più fare per tutta una serie di norme europee, però quello che veniva fatto a Prato era di riciclare le fibre di vestiti, per praticamente c'erano questi macchinari e anche le persone, sistematicamente ovviamente, che dividevano le fibre di vestiti e poi le riciclavano. Poi dal momento in cui è diventato obbligatorio rappresentare, diciamo, l'origine delle fibre, questa cosa non è più non si può più fare, cioè ora sta cercando di essere reintrodotta, ma è andata a morire, diciamo, come pratica. E all'epoca è simpatico, secondo me, immaginare questa dimensione, per cui noi in Italia, cioè queste fibre che venivano riciclate erano vestiti usati che venivano dagli Stati Uniti, erano sostanzialmente balle di vestiti che probabilmente le persone, non so, immagino, cioè non so come funzionasse negli Stati Uniti, però immagino la gente pensasse magari a volte magari anche di donare, come la gente che ora mette no, i vestiti nei cassoni gialli e speri che ci siano altre persone che hanno più bisogno di te che magari possono usare quei vestiti, ma oggi come allora sostanzialmente quei vestiti venivano venduti e portati in paesi più poveri, e in quel momento eravamo noi, l'Italia, per cui prendevamo quei vestiti e poi diciamo avevamo un meccanismo per riciclarli. Oggi purtroppo anche certo è legato anche al modo in cui si producono quei vestiti, questo meccanismo è molto più complesso, per cui quando invece noi oggi diciamo come primo mondo facciamo queste balle, le buttiamo poi ai quattro angoli del pianeta come Occidente, nella maggior parte dei casi è praticamente impossibile riciclare quelle fibre, e come veniva detto anche nell'introduzione, poi c'è la discarica, le montagne di rifiuti e sostanzialmente poi c'è l'impossibilità di riutilizzare quei capi. Tra l'altro mi faceva venire in mente questa cosa che tu dici, che era il vanto, il fiore all'occhiello delle istituzioni pratese, in generale della città di Prato, questa appunto pratica del riciclo dei vestiti. E io mi ricordo che da piccola all'elementare ci portavano in gita a vedere, ero stata a vedere una di queste fabbriche, sì. E mi ricordo che mi aveva colpito tantissimo l'odore. Io chiaramente era la prima volta che entravo dentro una fabbrica, questo odore di perché chiaramente i vestiti venivano trattati con elementi chimici, quindi c'era questo fortissimo odore, e camminavi sopra uno strato di bottoni, cioè il pavimento era praticamente uno strato di bottoni compressi, perché erano migliaia, milioni. E l'altra cosa che ricordo molto bene era la pratica di andare dai cenciaioli, cioè a Firenze si andava a Prato da adolescenti, andavamo a Prato dai cosiddetti cenciaioli, che tu dovevi sapere dove erano, perché non è che erano pubblicizzati, erano nelle aree industriali, e ti trovavi questi quad che vendevano in teoria all'ingrosso, ma se te li andavi lì chiedevi per favore, ti vendevano anche al dettaglio, e ti prendevi i vestiti generalmente anche al chilo da queste montagne di vestiti. E questa è una roba effettivamente che adesso sento un po' nella vulgata pubblica, politica, ogni tanto di palazzo, ogni tanto ritirare fuori come ai bei tempi andati, noi sì che facevamo bene, come se poi a un certo punto sono arrivati dall'alto gli alieni e ci hanno portato questo diverso modo di quella è sempre la grande protezione del piccolo mondo antico, quella è sempre lì che può arrivare. Mentre a me un'altra cosa che mi è venuta in mente riguardo all'impossibilità del riutilizzo, alla decomposizione delle fasi, sono le grucce, che è una roba, cioè a me l'idea appunto che in tutto questo meccanismo ogni capo diciamo dalla cintura in su coincida con una gruccia nuova è veramente illogico. Ora poi appunto magari sono sicuro che ci sarà un meccanismo o di guadagno commerciale o di necessità logistica, però sta di fatto che forse per le mie cattivissime abitudini casalinghe, però mi sembra una roba assurda che ogni capo abbia una gruccia nuova, ad esempio, o comunque sia ci sia un tutto questo traffico e mercato. Io pensavo quasi che fosse un appannaggio del singolo negozio, e invece non... Invece abbiamo scoperto nella lotta delle grucce che penso in tanti di noi abbiamo capito questo sistema, che secondo me è sempre molto interessante come le lotte operaie ci fanno scoprire poi quello che c'è dietro le quinte della lavorazione, tante cose che perdiamo per scontate e che invece appunto penso che ormai l'abitudine dovrebbe essere rendersi conto che dietro ogni cosa, ogni oggetto, sì, c'è qualcuno che l'ha lavorata, e un sistema molto spesso, in questo caso era quello delle grucce, c'è stata questa lotta Molto bella, perché è stato un momento anche importante di coordinazione fra tante realtà qui sul territorio, perché appunto c'era un cartello delle Grucce, c'erano appunto all'epoca mi sembra 10-11 fabbriche di Grucce, e tutti noi abbiamo capito appunto che business ci può essere dietro una gruccia, i vari modelli di Grucce, sì, i colori delle Grucce, le Grucce che costano di più, le Grucce che costano di meno, quello con i ganci, senza i ganci, tutto un mondo delle Grucce che per noi appunto sono oggetti che non vediamo mai, ci ritroviamo sempre quando non li vuoi, esatto, e che in realtà esiste poi un mondo, un business e anche appunto un sistema di sfruttamento dietro la produzione di queste Grucce. E io appunto poi a Prato, come ovunque nel distretto pratese, di fatto coesistono diversi livelli di automazione nella produzione, per cui all'epoca diciamo noi avevamo conosciuto dei grucciai già diversi anni prima, e il meccanismo era sostanzialmente che c'erano il lavoro di queste persone era prendere i ganci di metallo, metterli in un oggettino, un apparecchino che scaldava il pezzo di metallo, e a mano loro con il gancio di metallo caldo lo dovevano mettere nella parte di plastica. Lascio immaginare cosa significhi farlo per 12 ore al giorno, senza mai un giorno di riposo, e ovviamente anche tutta una serie di rischi legati alla salute, gli infortuni. Poi con l'aumentare, diciamo, di questo business, perché ovviamente esiste anche l'importazione delle Grucce, una parte delle Grucce viene importata sempre dalla Cina, però appunto per questo sistema che dicevo prima, comunque un meccanismo per cui puoi averle più velocemente, si è ampliato anche appunto la produzione stessa a Prato, e per cui poi nell'arricchirsi di questo sistema si è poi anche sviluppato tecnologicamente, per cui poi quando noi abbiamo fatto la lotta invece c'era un sistema diverso, la mansione era tipo mettere questo filo di plastica nella macchina che si scioglieva e poi creava la forma, poi a quel punto era la macchina stessa che metteva il gancio nella parte di plastica, e poi la maggior parte della mansione a quel punto dei lavoratori era mettere i Grucci nelle scatole con questo sistema. Io ho visto un sacco di video, questo sistema per mettere le Grucce, per stipare il più Grucce possibile dentro solo una scatola, e parlavamo di numeri esorbitanti, e che comunque appunto davano sempre l'idea della produzione di abbigliamento, perché lì ti rendevi conto appunto per ogni Gruccia, per ogni scatola c'era magari 100 Grucce dentro, tutte le scatole vedevi, ad ogni Gruccia corrisponde un vestito, un pantalone, una maglietta che viene prodotta a Prato, e che poi appunto per quello anche che si diceva prima, probabilmente diciamo in Occidente non esistono abbastanza persone per poter indossare tutti questi vestiti. Proprio di no. Ci ascoltiamo nell'ultimo quarto d'ora che ci resta, l'ultimo contributo di Mario, che ci fa un piccolo racconto della comunità cinese che ci aiuta per contestualizzare ancora meglio quello che succede da quelle parti. E poi vi porto qualche testimonianza diretta, un paio di aneddoti, di racconti o così, accennati appena di cose che mi sono capitate oltre che a scuola, nei pomeriggi, nei doposcuola, lavoro in quartieri dove è molto fitta la presenza di persone cinesi, molte delle quali sono operai di fabbrica, anzi direi la quasi totalità. E è successo, per esempio, nei giorni del lockdown, durante il confinamento, durante il Covid, è stato attivato la scuola a distanza, la DAD, e ovviamente c'erano anche numerosi ragazze e ragazzi cinesi che vi partecipavano, e che tuttavia tutto il tempo, questo mi ha colpito, per esempio avevano la telecamera, il microfono spento. Durante quel periodo è stato quasi impossibile con loro fare, malgrado molti fossero, la percentuale loro nella classe fosse alta, era stato con tutti loro quasi impossibile fare, tranne pochi casi, lezione, perché appunto la telecamera e il microfono erano spenti. Questo avveniva perché nella maggior parte dei casi si trovavano nei fatti poi a lavoro durante quei giorni e c'era una forma di forse imbarazzo, vergogna oppure altro. In ogni caso non si facevano mai vedere, né, se non in pochi momenti. Ho insistito per un paio di volte all'inizio, poi ho capito e ho smesso. E in pochi momenti in cui è stato acceso il microfono sentivo sotto dei suoni, per esempio, trrr-tsh, oppure poi quando quelle pochissime volte ho visto accendere la webcam vedevo i tessuti o la macchina da cucire e così via. Sì, questa è una realtà sicura che c'è e che senza commenti ulteriori, insomma, testimonio qui come tale. Oppure un altro avvenimento che mi ha colpito molto è stato quando avevo fatto i complimenti a dei ragazzi che erano venuti con uno zaino nuovo di pelle. Evidentemente era stato lavorato dai genitori in fabbrica, volevo fare loro i complimenti, era effettivamente bello fra l'altro. E il padre di questi ragazzi poi un paio di giorni dopo è venuto e mi ha chiesto che colore volevo, perché i figli avevano detto che avevo fatto i complimenti per lo zaino, ci tenevo a regalarmelo. Me l'ha portato, me l'ha donato, poi a un'altra persona che era lì è piaciuto, ha chiesto di acquistarlo, è stato venduto per poco, molto poco, davvero poco. Questa stessa borsa poi mi è stato detto dal padre che era, perché a me è stata presentata con il logo del marchio affisso sopra, cosa che non era avvenuta con la borsa che avevano i ragazzi. Ci ha tenuto il padre a dirmi che era una marca di alta moda del nord Italia e che faceva capi prestigiosi, che la sua fabbrica faceva cose importanti, che era una borsa insomma importante. E incuriosito sono andato a vedere sul sito di questa azienda, la quale si fregia e vanta dell'italianità da tutte le parti, ci sono le bandiere italiane, il tricolore, il... Ora non è più così, è cambiato il sito, l'ho visto ieri, ma prima c'aveva l'artigiano col grembiule di cuoio, con le mani bianche che tagliavano la pelle con lo strumento antico. Nella realtà poi non è questo, questa stessa marca è prodotta in un capannone qua nel territorio della Piana vicino a Firenze, venduta per molto poco, perché ho visto la cifra alla quale è stata venduta quest'altra persona che l'ha acquistata, e poi sovrapprezzata sul sito di questa azienda che la rimetteva in moda come fregiandosi di tutto il made in Italy completo che c'è, che poi ne fatti in qualche... vabbè. Ad ogni modo veniva sovrapprezzata di tantissimo, parlo di centinaia di euro, cioè una roba tipo... poche centinaia di euro in più rispetto a quanto quella stessa borsa era stata venduta a quest'altra persona. E quello che era cambiato in sostanza era niente, perché aveva il logo, la stessa borsa. Mi ha colpito tanto pensare a come poi la manodopera venga effettivamente da qui, la rivendita nel loro sito e nei loro negozi sia presentata in un certo modo, ma poi la realtà che effettivamente vi è dietro è questa. Ad ogni modo ringrazio molto per il regalo, che ho veramente e sinceramente apprezzato. Ecco, ora se vediamo Mario con uno zainetto di pelle sappiamo la storia. Bene, ci restano qualche minuto, parliamo, perché Mario è stato molto, come dire, polite, non ha detto i nomi dei marchi, non ha detto le cifre, diciamoli invece noi. Sì, noi infatti ci facciamo un po' che remore, è andata sempre bene tra l'altro, e, nel senso che appunto si parlava di borse che sicuramente non è il distretto tessile ovviamente, pelletteria, ma che è sempre fare qui nel territorio, Campi Bisenzio, Rosmannoro, provincia di Firenze, anche una parte a Prato, che poi è collegato a tutta la questione di Santa Croce sul Larno, che però non abbiamo tempo di affrontare, sarebbe comunque, tre puntate, esatto, è altrettanto interessante. E, però appunto non guardiamo come non ci concentriamo su come si tratta la pelle, ma arriviamo al punto in cui la pelle c'è già e viene tagliata, incollata, vengono messe le zip, tutti gli accessori, le fibbie e tutto quello che ci vediamo sopra una borsa, e in questo caso cioè, appunto, come veniva detto anche prima, il settore della pelletteria fiorentina, che è appunto un vanto internazionale, eccetera, anche qui diciamo, possiamo dire, non viene fatta, non ci sono le stesse condizioni di lavoro che a Prato, perché si fa festa la domenica, nel senso che si lavora 6 giorni, non 7 giorni. Beh, 12 ore, 12 ore 6 giorni e anche 14 e 15 ore però appunto un prezzo di vetrina che arriva a 2.000, 2.500, 3.000, e parliamo di aziende che sono Gucci, Dior, Yves Saint Laurent, Burberry e tutto quello che è un mondo che io ho scoperto, tra l'altro, devo confessarlo, sempre attraverso le lotte, perché c'erano tutta una serie in di Genua. Brand. Sì, esatto, noi no. Noi siamo abbonati ai Saint Laurent. Sì, esatto, sinceramente non conoscevo alcune di queste. E poi appunto però vai a vedere sul sito internet, o vai a vedere in centro a Firenze dove c'hanno i negozi, e vedi appunto queste borse rappresentate in queste vetrine come appositamente, come fossero dei piccoli tesori in cima a un piedistallo, solo quella borsa con le luci che illuminano, eccetera. Se tu chiedi dentro ti dicono che viene fatta a scandicci, ed è probabile, anche appunto c'è anche ci sono tutte anche le aziende di scandicci, in cui appunto, come diceva anche nell'introduzione, ti immagini l'artigiano, questo povero artigiano che deve fare tipo tutte le borse del mondo, un geppetto, sì, esatto, con la barba, non so, ci mette 2 settimane a fare una borsa solo che l'ha fatta solo per te. In realtà ovviamente ci sono operai e operaie stranieri che lavorano in questi condizioni che descrivevamo, persone che vengono appunto principalmente dalla Cina, dal Pakistan, dall'Afghanistan, dal Bangladesh, alcune sempre più entra anche la manodopera di origine africana, nigeriana, senegalese, alcune persone che hanno magari delle competenze rispetto alla pelletteria già dal paese di origine, altre invece che entrano appunto senza particolari competenze, che le acquisiscono in azienda con questi turni di 12 e 14 ore e in una dimensione per cui appunto come funziona con i brand, c'è un sistema di appalti e subappalti, il grande brand appalta molto spesso a ditte a conduzione italiana, che a loro volta appaltano a altre ditte più piccole, di via sempre più piccole, spesso a conduzione cinese, e per cui in un meccanismo che si crea, in cui il brand stesso ha una parte della lavorazione anche interna, alcuni non ce l'hanno proprio per niente, alcuni hanno una lavorazione che è interna alla ditta, e che però è una percentuale rispetto diciamo in assoluto sui numeri delle borse, che è piccolissima, e in cui ci sono operaie che magari a cui viene applicato il contratto nazionale, magari ci sono dei premi di produzione, comunque contesti di lavoro, anche diciamo i locali di lavoro, no? Curati, illuminati, puliti, eccetera, che ovviamente sicuramente non sta a me dire che lavorino in in buone condizioni. Non li conosco, per cui non voglio dire questo, e spero che se ci abbiano qualche problema si vogliano organizzare anche loro. Però molto spesso poi una componente bianca, autoctona, e invece poi appunto la maggior parte della lavorazione che viene poi invece scaricato in questo sistema di appalti e subappalti, che poi non vengono nemmeno chiamati tali, cioè un rapporto di... in cui c'è sono clienti sostanzialmente, che quindi i grandi brand si levano la responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, e che appunto invece vengono sfruttati, pagano aziende per farsi fare certificati, perché questo è chiaro, lo sanno tutti, questi certificati di sviluppo, di rispetto, pagano sostanzialmente, e quindi si rappresentano appunto come grandi aziende che rispettano i lavoratori. Purtroppo non è così nella pelletteria, non è così nel distretto tessile. Alcune cose sono cambiate in questi anni con gli scioperi che abbiamo fatto, per il coraggio e la determinazione dei lavoratori che si sono messi in lotta, che hanno fatto scioperi durissimi, da una settimana, che è il minimo, a un mese, due mesi, cinque mesi, nove mesi, e che hanno ottenuto il contratto nazionale, il contratto a tempo indeterminato, 8 ore e 5 giorni, e ovviamente questo movimento continua, i scioperi continuano, e per appunto cercare di disinnescare sempre di più questo meccanismo di sfruttamento. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta praticamente finendo, però sei stata bravissima a condensare tutto quello che volevamo dire, e ce ne sarebbe da dire molte di più, ma non abbiamo tempo, ahimè, e quindi vi lasciamo con un brano musicale fatto proprio da questi lavoratori di cui vi abbiamo parlato per tutta la puntata, e quindi gli diamo voce in questa maniera. Sarebbe stato bello averli in studio, ma non è stato possibile, anche immagino fossero a lavorare, però almeno li vi possiamo far sentire quando cantano e suonano. E quindi vi ringrazio e ti ringrazio, e vi do appuntamento al prossimo mese qui a Radio Wombat per il Ponte Radio. Ciao ciao e grazie. Morte, fame, ma se insieme ci organizziamo possiamo fare la guerra alla guerra dei padroni. È l'unica possibilità di poter rispondere ai padroni se siamo uniti. Attento mio direttore, che siamo in tanti, puoi chiamare la digo, tanto io me ne frego di una denuncia in più, una denuncia en menos, y padroni se aprofitando de la clase operaia. No tienes un gobierno que ci difende en Italia, ma la fuerza del coba creata del 2000 ni protege lo extranjero, es tutti gli italiani. Se ci trattano come i cani, se ci operiamo ci menano con i pali, fabbricano le accuse poi si lavano le mani. Uscito in tutti i quotidiani, giustizia per Adiluana e altri.